Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Non perdetevi oggi l'ultima puntata della programmazione stagionale. Da sabato prossimo e fino al 3 settembre Giovani Talenti cambia format, restando aperto per ferie nella nuova versione estiva. In Giovani Talenti estate, ogni sabato sempre alle 13.30, potrete ascoltare le migliori storie dell'ultima stagione. Ve ne proporremo due a settimana legate da un fil rouge professionale o di meta finale di migrazione. Ma torniamo alla storia di oggi per parlare di un tema che negli ultimi mesi ha fatto da stella polare alla nostra trasmissione, quello dell'innovazione. Lo facciamo con un racconto che arriva, pensate, dalle Highlands scozzesi. Una vicenda di realizzazione professionale che ha davvero dell'incredibile e che, ne sono sicuro, incoraggerà molti di voi a prendere la valigia e a osare. C'è la cultura nazionale che dà più importanza ai capelli grigi più che al merito. Finché non cambieremo questo modo di pensare, secondo me non riusciremo a cambiare la nostra capacità innovativa. Marco Busi, 35 anni, amministratore delegato di Carisma RCT, azienda con sede in Scozia. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. Il lavoro a termine o atipico batte il lavoro a tempo indeterminato. Nell'indagine online dell'associazione RENA, sulla base di un questionario compilato per lo più da 25-35 anni, RENA ha rilevato come la retribuzione mensile più diffusa sia tra i 1.000 e i 1.500 euro. Quasi il 60% degli intervistati considera la propria posizione precaria, nel quasi 80% dei casi si sente tutelato dalla famiglia e quasi per nulla da azienda, stato o sindacato. La metà del campione non riscontra corrispondenza tra la tipologia di contratto e mansione reale. Due aziende su tre ricorrono a forme di contratti atipici. Per un intervistato su tre, la prima emergenza è garantire anche ai lavoratori atipici gli standard di welfare di cui gode chi ha un contratto collettivo. E per Eurostat il tasso di occupazione italiano nel 2010 era del 61,1%, molto al di sotto del 68,6% europeo. Se l'Italia vuole assicurarsi una crescita economica e salvaguardare la coesione sociale, deve saper dare risposta alle aspettative di tanti giovani che vivono una condizione di instabilità e incertezza per il loro futuro, così il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. La disoccupazione giovanile preoccupa le organizzazioni internazionali. Per il segretario generale dell'OCSE, Angel Gurria, ci sono troppe vittime della crisi, a partire dai giovani frustrati per la mancanza di opportunità. Per l'OCSE in Italia la diseguaglianza di reddito è più alta della media. Secondo il Consiglio d'Europa, i governi devono inserire il tema dell'occupazione giovanile tra le priorità. Sempre per l'OCSE, l'Italia è tra gli ultimi per volume di finanziamenti alle aziende giovani con potenziali di crescita, il cosiddetto venture capital. Nel nostro paese i finanziamenti di venture capital sono fermi allo 0,005% del PIL, nettamente inferiore al livello registrato in Germania, Francia e Gran Bretagna. Solo Polonia, Ungheria e Lussemburgo fanno peggio. Aperto fino a novembre il bando della seconda edizione del concorso nazionale Il Talento delle Idee, iniziativa indetta da Unicredit e Giovani Imprenditori di Confindustria per valorizzare le migliori idee e realtà imprenditoriali innovative in Italia. Assegnati dal Ministero della Salute 100 milioni di euro a 295 progetti di ricerca sanitaria, di cui 41 milioni a giovani ricercatori, per il ministro Ferruccio Fazio, un'iniziativa concreta per tenere in Italia i giovani cervelli. Ed è online Euraxis Italy 1, il portale per la mobilità dei ricercatori. Il sito si propone come strumento per fornire ai ricercatori stranieri in Italia informazioni utili soprattutto per sopravvivere alla burocrazia. Info su euraxis.it. E per chi volesse invece tentare un MBA all'estero, sul web c'è una nuova guida, italianmba.blogspot.com, questo è il sito manuale per affrontare l'esperienza. È facile cambiare vita se sai come farlo, questo è il titolo del nuovo libro di Aldo Mencaraglia, autore del blog Italians in Fuga, edito da Burr. Il volume rappresenta la prima guida pratica per gli aspiranti emigranti del terzo millennio. Sentiamo Mencaraglia. In tanti mi chiedevano tantissime domande che volevano una risposta, un filo un po' più logico che con il blog non è possibile dare, mentre con il libro è possibile creare praticamente passo per passo il sentiero che bisogna percorrere per andare a emigrare all'estero. Se tu dovessi riassumere in due o tre punti i consigli principali per gli aspiranti emigranti giovani e qualificati? Numero uno, imparare la lingua straniera, che sia l'inglese, il francese, il tedesco, la lingua della nazione nella quale andrete a finire. In secondo luogo, cercare di capire il mercato del lavoro della nazione, dove volete andare, cosa richiede. Ed in terzo luogo, cercate di crearvi un network di conoscenze, di amicizie grazie ad internet, in modo che quando arrivate laggiù avrete qualcuno sul quale appoggiarvi. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: un capo economista alla MIG Bank di Neuchâtel in Svizzera, scadenza per il CV 7 luglio, info su migbank.com. Consulente per il transfer pricing ad Ernst & Young, sede di Bruxelles, scadenza per il CV 19 luglio, info su ey.com. E infine un ricercatore senior per il Joint Research Center di Siviglia. Scadenza per i CV 15 agosto, info su ipts.jrc.ec.europa.eu. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta per la prima volta nel Highlands scozzesi per raccontarvi un'altra straordinaria storia di espatrio. Nome: Marco. Cognome: Busi. Età: 35. Città di origine: Brescia. Studi: ingegneria gestionale a Brescia e dottorato di ricerca in ingegneria meccanica a Trondheim, in Norvegia. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 99. Per andare dove? A Trondheim, in Norvegia. Perché? Per provare un'esperienza grazie a una borsa Erasmus. Quale lavoro svolgi attualmente? Direttore d'azienda. Dove? In Scozia. Tornerai? Non credo tornerò mai al 100%, come non credo di essere mai partito al 100%. La colonna sonora di Braveheart ci porta nelle Highlands scozzesi, là dove tutto è iniziato, potremmo dire, parlando della storia di Marco Busi. C'è una bella frase che ben riassume la tua vicenda, Marco. La storia di chi, usando parole tue, una volta partito non è più tornato indietro. Sono cresciuto perché mi sono state date responsabilità importanti sin dall'inizio. Sono sempre stato premiato per l'intraprendenza più che castigato per gli errori fatti. E questo mi ha aiutato immensamente. Marco, c'è questa mentalità premiante in Italia oppure la dovremmo importare dall'estero? Non sembra neanche esserci lo spazio per l'intraprendenza e l'iniziativa, strutture gerarchiche, formali e anche culture aziendali e istituzionali che sono generalmente influenzate dal grado di anzianità più che dalla meritocrazia, secondo me rendono anche un po' difficile creare un ambiente che serva da territorio fertile per l'intraprendenza e l'innovazione. Iniziamo come sempre dalla tua storia di studi per raccontare un'avventura che sono certo appassionerà i nostri ascoltatori. Scegli come corso di laurea ingegneria gestionale a Brescia, perché? Semplicemente perché all'epoca mi sentivo più portato per i numeri, diciamo. L'esperienza universitaria si rivela però disastrosa in termini di rapporto con i professori e modalità degli esami. Ci spieghi allora meglio cosa non andava proprio? La mia esperienza universitaria è stata sinceramente terribile per la differenza tra professori e studenti, diciamo. I professori stavano in alto, gli studenti stavano in basso ed era praticamente impossibile avere un buon rapporto appunto tra i due mondi, diciamo. Io non mi sentivo che veniva dato assolutamente valore all'impegno e alla volontà di noi studenti, ma sembrava quasi che si godesse nel bocciare o nel dare dei voti miseri. Nel 99 la prima significativa svolta, una borsa Erasmus di 6 mesi per la Norwegian University of Science and Technology a Trondheim, in Norvegia. Parti senza troppe aspettative, poi però cosa accade? Che mondo scopri molte latitudini più a nord? Un mondo completamente diverso, un mondo in cui i professori erano al servizio degli studenti e non viceversa. Dove sì, in un esame il numero di bocciati superava una certa soglia, partiva immediatamente un audit per verificare la qualità dell'insegnamento del professore di quel corso e comunque dove la qualità dell'insegnamento veniva continuamente controllata con controllo al campione. L'esperienza si rivela così proficua che raddoppi il periodo di borsa a un anno, in 12 mesi riesce a dare più esami che nei precedenti 36, vinci anche una borsa Leonardo per un'esperienza di lavoro presso Sintef, sempre in Norvegia. In due parole, cos'è Sintef? È uno degli istituti di ricerca più grandi d'Europa, 2000 persone da una settantina di nazioni diverse fanno ricerca un po' in tutti i campi. A quel punto ti si presenta il bivio della vita, vinci una borsa di studio a Brescia per un corso di specializzazione di 6 mesi sui sistemi di gestione aziendale, passi colloqui, ricevi svariate offerte da aziende italiane, ma c'erano due aspetti che non andavano bene, raccontaci meglio. Le offerte che mi sono state fatte erano molto interessanti, però io ho dovuto paragonarle con quella che era l'offerta fatta dalla Norvegia, dove mettendole tutti i fattori sul piatto della bilancia, secondo me in Italia l'esperienza proposta mi offriva il classico percorso formativo che dopo alcuni anni mi avrebbe portato a diventare probabilmente un consulente o comunque un responsabile di produzione in un ambiente, diciamo, medio piccolo. In Norvegia invece sembrava che l'opportunità fosse molto più ampia e dal punto di vista remunerativo poi non c'era sicuramente paragone. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti. Caparezza, Goodbye Malinconia, ci traghetta fino al tuo riespatrio in Norvegia. Appunto, l'hai detto tu, la scelta l'avevi fatta e l'avevi fatta in un batter d'occhio. Diciamo allora in due parole quali erano le prospettive di carriera ed economiche in Norvegia e cosa saresti andato a fare. Le prospettive erano tante, illimitate a dire la verità. L'offerta era quella di diventare un ricercatore per Sintef con la possibilità di avere anche un dottorato all'università. Poi negli anni scoprirai anche un atteggiamento da parte del tuo capo molto positivo, presenza fissa e supporto, ma libertà per te di esprimere al meglio le tue potenzialità. E avevi insomma poco più di 20 anni, giusto? Sì. A 28 anni però arriva un nuovo bivio perché insomma completi il dottorato in Norvegia pieno di soddisfazioni, un periodo fantastico lo definisci, ma ti arriva un'offerta dalla Scozia, dalla Strathclyde University, per fare cosa? Per diventare un dirigente di un centro di ricerca cofinanziato dal governo, università e industria. Avevi 28 anni, sarebbe mai pensabile, ipotizzabile in Italia? $1 milione il budget tra l'altro a gestire. Un milione 1,5 milioni di euro di budget da gestire. Sì, ho visto più possibilità in Scozia che non in Italia, e sicuramente questo mi ha portato ad accettare questa offerta, che l'ho trovato di molta responsabilità. Marco, quello che colpisce leggendo e ascoltando la tua storia sono le regole che sottostanno al funzionamento di quello che possiamo chiamare il mercato dei talenti. Si cercano i migliori, li si seleziona in modo trasparente con un panel qualificato, come è avvenuto per te in Scozia, poi li si paga anche profumatamente per raggiungere obiettivi. Si punta su di loro anche se hanno meno di 30 anni. Perché in Europa funziona così e perché non funziona così in Italia? La cultura nazionale, che dà più importanza ai capelli grigi più che al merito. Finché non cambieremo questo modo di pensare, secondo me non riusciremo a cambiare la nostra capacità innovativa. Rimarrai in Scozia 3 anni circa e da quell'esperienza trarrai 3 insegnamenti importanti. In brevissimo? Sicuramente che il detto chi non sa fare insegna probabilmente ha un fondo di verità. Secondo, ho imparato che la ricerca e la capacità di risolvere dei problemi in modo unico è una cosa che mi appassiona. Ed infine che secondo me il mondo accademico sta perdendo un po' la strada e sta perdendo il suo ruolo, diciamo, di innovatore. Proprio da qui parte la tua sfida. Alla fine del 2007 molli tutto, ti licenzi e con alcuni soci fondi Carisma RCT. Quale idea sta alla base della tua attuale azienda e qual è esattamente il vostro business? Vogliamo sfruttare, diciamo, quella nicchia di mercato che è popolata da persone e da aziende che capiscono l'importanza e il beneficio dell'approccio scientifico, ma fanno fatica a lavorare con università ed istituti accademici che magari non capiscono quali sono i veri obiettivi dell'industria. RCT sta per Research Consulting and Training, e quindi spiega, diciamo, i servizi che offriamo. Ci saresti visto ad aprire Carisma in Italia? No, credo proprio di no, ma per un semplice fatto: tutto ciò che faccio sono oggi il risultato di quello che ho fatto e le persone che ho incontrato in passato. Quindi se io fossi stato in Italia non sarei andato in Sinter, non sarei andato in Scozia e via dicendo. A 35 anni sei divenuto amministratore delegato di ZE1 Global, e quando parli con i tuoi coetanei rimasti in Italia a 35 anni un po' inorridisci, no? Hanno magari 10 anni di esperienza alle spalle, ma si vedono offrire dalle aziende stage non pagati. Soprattutto non trovano nessuno disposto a investire su di loro, come invece è accaduto con te all'estero. Dove retrocederà un paese che sfrutta i suoi giovani talenti come muli anziché valorizzarli? Non c'è limite a dove posso retrocedere, nel senso che secondo me il problema fondamentale è appunto che i giovani vengono visti più che altro come forza lavoro dell'era industriale, quindi proprio, diciamo, come risorsa materiale, piuttosto che come forza lavoro del mondo odierno, dove in realtà si parla più di una forza lavoro intellettuale. Finché non si capisce che questo è un ruolo assolutamente fondamentale per l'innovazione e il miglioramento, beh, non ci sarà né innovazione né miglioramento. Come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va? Cosa cambieresti e come? Se fossi re per un giorno, io rivoluzionerei completamente il nostro sistema paese, partendo dalle classi dirigenti nel mondo pubblico e politico, perché finché lasceremo che le stesse persone rimangano nelle stesse poltrone per 20-30 anni, indipendentemente dalle idee, credo che avremo un problema grosso dal punto di vista della capacità di innovare. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Marco Busi, 35 anni, amministratore delegato di Carisma, azienda con sede in Scozia. Marco è giunto a questa posizione dopo una laurea in ingegneria gestionale, arricchita da un Erasmus in Norvegia che le ha aperto le porte dell'estero. Una volta divenuto dottore, Marco ha lasciato perdere le opportunità in Italia, ritenendole inferiori rispetto a una carriera da ricercatore proprio in Norvegia. Proda quindi a Sintef, uno dei centri più importanti d'Europa. Concluso il dottorato, accetta un'offerta dalla Scozia come dirigente per un centro di ricerca. A soli 28 anni, nel 2007 si licenzia per fondare la società Carisma, specializzata nella consulenza in ricerca e sviluppo per università e imprese. Ci raggiunge ora in linea Piero Formica, professore di economia della conoscenza e dell'imprenditorialità presso la National University of Ireland e fondatore dell'International Entrepreneurship Academy. Buon pomeriggio, Piero. Buon pomeriggio a te, Sergio. Piero, che effetto ti ha fatto ascoltare la storia di Marco? Qualcosa del genere in Italia sarebbe stato possibile? Molto interessante. Sui miei colleghi, essere professore in Italia non è una professione, è uno status, non c'è mobilità. Nel mondo anglosassone oggi sei professore all'università, ma ne sei il capo economista di Google, quindi c'è una mobilità sociale, orizzontale e verticale. Da noi non è una professione, è uno status, per cui le università così non possono funzionare. Ha ragione Marco. Piero, tu hai un'esperienza molto vasta, oltre 30 anni sul tema innovazione e impresa. Hai fondato la International Entrepreneurship Academy, presiedi Startup Associate, l'associazione delle imprese innovative in Italia, hai insegnato un po' dappertutto. In Italia c'è un terreno fertile per i giovani che vogliono imbarcarsi in questo settore, oppure devono sempre in primis guardare all'estero? Paradossalmente qualcosa sta succedendo in Italia. Stiamo cominciando a copiare ciò che si faceva nel mondo anglosassone 25 anni fa. Bene. Siamo un quarto di secolo di ritardo e quindi restiamo indietro. Tutti parlano di innovazione, Piero, in Italia. Poi però quando guardiamo i dati c'è di che mettersi le mani nei capelli. Investimenti in ricerca e sviluppo pari all'1,27% del PIL. Siamo nella serie C europea degli innovatori moderati. Il presidente dell'Authority per le telecomunicazioni Calabro parla di un rischio retrocessione in B sulla banda larga. E abbiamo già perso il treno del futuro? Ah, in qualche misura siamo in serie B, che grazie al Made in Italy, ma tentiamo di scivolare verso gli ultimi gradini per andare in serie C. Ma la serie B ancora la teniamo col Made in Italy. Ma anche il capitale di rischio. E succede che le start-up, dopo un poco, anziché continuare il loro mestiere, si trasformano in consulenze per le applicazioni da fare all'Unione Europea. Penso non ti sorprenda sapere che, secondo l'OCSE, siamo tra gli ultimi per volume di finanziamenti alle aziende giovani con potenziale di crescita, il cosiddetto venture capital. Lo sai? Ma lo so benissimo, ti posso dire che anche pochi mesi fa un ragazzo, diciamo, italiano a San Francisco, che ha 22 anni, mi diceva 3 anni fa, avevo 19 anni, mi presentavo alle aziende italiane per farmi ascoltare sul mio progetto imprenditoriale e mi dicevano: che cosa vuoi, hai 19 anni? Quindi quando la gerontocrazia impera, quando la gerontocrazia è ignorante digitalmente, è quello che succede. Ti faccio un'altra domanda: quali colpe ha in questo una politica industriale che immobile da anni investe ancora troppo su settori maturi e sempre meno competitivi dell'economia, tralasciando, forse anche volutamente, aggiungo, i settori del futuro, quelli a maggiore tasso innovativo, e sono i giovani a pagare queste scelte, Piero? Oggi le università sono la officina dell'imprenditorialità del futuro, basata sulla conoscenza e sulla scienza. Le università questo mestiere non lo sanno fare e quindi tutto si riduce a stare chiuse nel nostro made in Italy, con grandi attacchi che vengono da paesi emergenti che hanno culture profonde nel design, per esempio anche nella moda, come si è detto, della Cina. Come imporre un cambio radicale che porti l'Italia nel futuro? Un cambio radicale sta essenzialmente in questi ragazzi che sono non immigrati come Marco, ma sono in mobilità internazionale, sono in circolazione, che possono, secondo me, fare da ponte tra quello che succede all'estero e portare qualcosa anche in Italia. La seconda cosa è convincere, tra virgolette, i grandi ecosistemi a essere presenti in Italia e far sì che i giovani possano emergere. Grazie al professor Piero Formica, e per chiudere con Marco Busi. Allora, Marco, quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie d'uscita, a un espatrio? Di non espatriare per scappare, quello secondo me non funziona mai. Sono troppe le persone che partono, vanno in Spagna o a Londra per imparare l'inglese come camerieri o robe del genere. Quello secondo me non funziona. Sfruttare la possibilità data dall'Erasmus o da istituzioni come quelle in cui è coinvolto Piero, sicuramente, quello sì, è un ottimo punto di partenza. Siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova emigrazione. Oggi proseguiamo la nostra inchiesta regionale sui programmi destinati al rientro degli immigrati. La Campania ha una legge dedicata, come ci spiega Giovanni Fanzini, segretario della consulta regionale sull'emigrazione campana. Per quanto riguarda la legge c'è un articolo specifico che aiuta gli emigranti che vogliono rientrare in regione. Ci sono degli aiuti per quanto riguarda il rimborso spese sostenute per il rientro, dei contributi se si vuole avviare un'attività produttiva, e una tantum per il fitto di un'abitazione. Per metterla in pratica, se io, campano residente all'estero, sì, volessi tornare, di quali benefici poi esattamente godrei? La prassi è questa qua: rientrare definitivamente, andare presso il comune dove si riprende la residenza e fare la richiesta in base all'articolo 19 della legge 296. In effetti l'importo, ci sono dei tetti massimi a seconda se si rientra dall'Europa o dai paesi extraeuropei. Noi a fine anno, secondo il budget che abbiamo a disposizione e secondo le richieste che ci pervengono, diamo in percentuale. Poi ci sono un altro articolo, articolo 20, che riguarda le attività produttive. Se un emigrato rientrato decide di avviare un'attività produttiva, una volta avviata può chiedere, in quanto emigrato rientrato, un contributo sulle spese sostenute. Ci sono misure in particolare per i giovani, magari di recente emigrazione? No, anche i giovani rientrano in questi contributi che le ho detto. Un'altra strada per i giovani che sono residenti all'estero, quindi figli di emigrati, è quella là di rientrare in Campania e usufruire del piano lavoro che da pochi mesi è stato approvato dalla giunta regionale e riguarda una fetta abbastanza sostanziosa. Pensi che sono stati stanziati per questo piano lavoro circa 600 milioni di euro. Stiamo parlando sempre di giovani residenti all'estero di origine campana. Quindi anche di recente emigrazione. Anche di recente emigrazione. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.regione.campania.it. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina fan Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle nostre discussioni settimanali che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. Inviate le vostre lettere a giovanitalenti@radio24.it e le pubblicheremo sul web. Vi ricordiamo infine che all'interno del blog è attiva la piattaforma Matching e che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it.